e che già so, guardo assente. Passo stanco in cerca di colore che non c'è anche nel fiume qui accanto. Solo è grigio, perdo il senso del tempo che ho, inesorabile scia. Viene vento, viene e si alza, si distende ed io lo sento, sta portandoti via. L'assenza tua è sempre più incalzante e riempie paradossalmente il vuoto circostante. Confuso dai tuoi occhi inciampo in mille sguardi che freddamente perdo, vedo troppo tardi. Credo che tardi non sia per cercare ancora noi. Forse anche solo un momento, non buttare via tutto il tempo che ci ho messo a comprendere che c'è dell'altro certo, ma è più profondo. Immerso in questa verità, ti sento come fossi qua. Tra le sue vie che già so mi confonde. Prendo tempo che conosco e mi sorprende nel contempo, sta portandomi via. La tua presenza ormai è sempre più distante, ma riempie incredibilmente il mondo circostante. Un viaggiatore è stanco se è per troppo tempo che parte e banalmente torna e getta foto al vento. L'inafferrabile scia, dove cercare ancora noi? Ci ritroveremo qui, forse anche solo un momento. Dell'altro certo, ma è più profondo. Immerso in questa verità, ti sento come fossi qua. E allora sia, ricerchiamo ancora noi. Ci ritroveremo qui, forse anche solo un momento. Non buttare via tutto il tempo che ci ho messo a comprendere che c'è dell'altro certo, ma è più